tutto è a capo. Una settimana di attualità di Gigi Donelli. Ci hanno tolto il lavoro, ci tolgono la vita e questo non è giusto. Abbiamo diritto noi, come tutti, di vivere e di andare avanti. Dare una notizia del genere significa esasperare ancora più gli animi, creare le premesse per incidenti ancora più gravi di quelli che sono verificati nei giorni scorsi. Mi appello all'unica persona che può fare qualcosa, al nostro Presidente della Repubblica, l'unico garante della legalità. Anche se i toni sono da guerra civile, voglio ricordare al nostro Presidente che Terzigno fortunatamente non è Africa, è ancora Italia. Terzigno, Bosco Reale, Cava Vitiello, nomi che emergono dall'anonimato tra appelli, proteste e una dose probabilmente inconsapevole di razzismo con l'Africa che ci finisce sempre di mezzo. Guerriglia, fiamme e sassaiole, camion bruciati, quotidiani che parlano di intifada dei rifiuti, per una vicenda tutta italiana, un tumore che cresce da 20 anni e che periodicamente esplode sull'hinterland napoletano. Punto e a capo. Ancora buongiorno da Gigi Donelli e da Pietro Lacorte questa mattina in regia. Oggi il nostro magazine della settimana raccontata da Radio 24 riparte da Napoli. Ieri l'emergenza è finita in Consiglio dei Ministri e alla fine un'ordinanza urgente solleva la società che gestisce la discarica di Terzigno. Vi ricordo che gli scontri sono legati all'ipotesi di costruzione di una seconda discarica e affida dunque tutto quanto alla Protezione Civile e ai suoi poteri speciali. Il presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, mette 14 milioni di euro a disposizione per le opere di compensazione e dice entro 10 giorni la situazione potrà tornare nella norma. Ma noi ora ripartiamo dalle voci, cominciando dal sindaco di Bosco Reale, Gennaro Langella. Si sta tentando di compiere uno scempio di natura ecologica di proporzioni veramente notevoli. Insomma, si parla di una discarica che probabilmente diventerà la più grande d'Europa all'interno di un'area protetta, quella del Parco Nazionale del Vesuvio, e che a poco condannerà a morte, con tutte le conseguenze che porterà, tutta l'area vesuviana. Ecco, questa l'inquietudine del sindaco di Bosco Reale, che in qualche modo segnala la preoccupazione dei piccoli comuni direttamente coinvolti. Ma intanto il presidente della regione, Stefano Caldoro, dice no, la seconda discarica a Terzigno va fatta e sarà sicura e moderna. Si dimostra oggi che il piano del governo del 2008 è un piano, come ha ricordato il presidente, rispondente alle esigenze e totalmente idoneo alla soluzione del problema. Su questo non ci devono essere dubbi, perché così è. È evidente che c'è una questione che è legata, di carattere strutturale, che è legata a 15 anni di ritardo. Il presidente Caldoro parla degli interessi mafiosi di vecchie discariche gestite dai personaggi, per intenderci, di Gomorra, di una sfida e di una spesa che solo per bonificare la discarica di Giugliano richiederà 50 milioni di euro. Questo se si vuole salvare, e evidentemente la regione intende farlo, le falde acquifere di una delle zone a più alta densità demografica dell'intera penisola. Da Napoli dunque riparte la sintesi, la riflessione su questa settimana che si va concludendo. Naturalmente, come al solito, è una riflessione fatta attraverso le voci, i servizi, le interviste di Radio 24. Prossima voce, la sentirete, è quella di Santi Giuffrè, che è un signore di Palermo e che dal 1 aprile del 2009 è il questore di Napoli. Un posto importante, un incarico complesso, complesso come le scelte che ha dovuto prendere, alle decisioni che ha dovuto assumere in queste ore intorno alla discarica di Terzigno. Lo sentiamo al microfono di Alessandro Milan. Questa volta inevitabilmente dovutisi schierare e dovutisi fronteggiare una situazione che era diventata impossibile. Siamo stati oggetto ripetuto di lancio di pietre a cui non ci siamo potuti sottrarre, quindi a questo punto sicuramente abbiamo dovuto spingerci e riconquistare il territorio di Terzigno. Senta, riconquistare il territorio per una questione di rifiuti, insomma, non è una bella immagine, insomma, però questa è la situazione. E però lei sa che ieri sono state adottate dei provvedimenti che in parte hanno raccolto le istanze della gente di Terzigno, si sono autorizzate gli scarichi in altre province, almeno per un breve periodo, e poi insomma dopo un mese bisogna anche capire che i cambiamenti normativi vanno fatti in altra sede, non sulla piazza. Senta, avete notizie di infiltrazioni, cioè chi manifesta, di persone anche della criminalità organizzata? Lei ha parlato si è parlato tanto di donne, bambine, abbiamo avuto invalidi. Certamente stanotte, quando è iniziata la sassaiola fitta contro di noi, le donne sono andate via. Quindi c'è un'organizzazione che certamente riesce a gestire quantomeno i tempi dell'attacco alle forze dell'ordine. Cioè le dice davanti mandano le donne, però poi al momento degli attacchi... Certamente nel momento di grande attacco da parte loro non c'erano più donne e bambini, quindi c'è un'organizzazione certamente che gestisce quantomeno la fase militare del contrasto, che si avvale anche di presenze femminili, ma non soltanto di presenze femminili. Invasi e discariche al centro dei veti reciproci tra le autorità amministrative. Sullo sfondo della vicenda, la gestione degli anni di Bassolino e questo elemento che emerge sempre più forte di diffidenza e preoccupazione, come racconta il presidente della provincia di Avellino, Sibilia. La provincia di Avellino produce circa il 7% della produzione campana di rifiuti. Nel frattempo, nella nostra discarica, sta sversando la provincia di Salerno, che ricordo è al momento senza una discarica. Quindi noi già doniamo alla provincia di Salerno, diamo la possibilità di scaricare dei rifiuti in provincia di Avellino. Quindi la risposta è no, Presidente, non li prendete quelli di Napoli? Non ce li prendiamo, se non che fino al 26 ottobre c'è anche la pronuncia del TAR ieri che esclude qualsiasi proroga dopo il 26 ottobre. Ecco, come abbiamo detto in apertura, ieri c'è stato il Consiglio dei Ministri. Berlusconi dunque cerca di calmare le acque, promette investimenti, soluzioni rapide. Intanto frena sull'allarme sollevato da Mantovano, sottosegretario agli interni, che aveva parlato di finalità al confine con l'eversione dietro alle proteste di Terzigno. Berlusconi ha detto a questo proposito: non mi sembra che il fenomeno sia così grave da richiedere un piano d'emergenza. Punto e a capo. E ora diamo spazio alla politica e direi naturalmente mettiamo in primo piano il tema della giustizia. Mentre dunque il Presidente del Consiglio parla di corrente eversiva all'interno della magistratura, lo fa in un'intervista pubblicata ieri dalla Frankfurter Allgemeine Zeitung, le convergenze all'interno della maggioranza, dunque tra PDL e Fignani, sul tema della giustizia si arrestano nuovamente ai blocchi di partenza. Una riforma annunciata è di fatto già naufragata. Future Libertà boccia la bozza sulla giustizia che il premier Silvio Berlusconi pensava già di presentare la prossima settimana in Consiglio dei Ministri. Gianfranco Fini convoca i suoi nel pomeriggio, condivisibile la separazione delle carriere del CSM, ma le convergenze finiscono qui. Tocca al presidente della Commissione Giustizia, la finiana Giulia Bongiorno, spiegare i no. Non possiamo condividere i seguenti principi. Le nuove funzioni e la composizione del CSM a maggioranza laica, i nuovi poteri che vengono conferiti al Ministro della Giustizia, la nuova collocazione della Polizia Giudiziaria, non più alle dirette dipendenze della magistratura. Dal canto suo il ministro della giustizia Angelino Alfano infonde ottimismo: non male, mi pare che la strada principale sia spianata, occorre ora lavorare su viali collaterali. Per il guardasigilli la riforma è condivisa perché l'impianto è carriere separate di giudici e PM nonché due CSM. I Fignani poi continuano a dire sì al lodo Alfano, i nostri sostenitori capiranno, spiega Italo Bocchino, riguardo alle proteste sul web. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Intanto il caso Antigua arriva in Parlamento con un'interpellanza a firma del leader dell'Italia dei Valori. Antonio Di Pietro chiede a Silvio Berlusconi di spiegare al Parlamento la sua posizione sugli investimenti immobiliari dell'isola di Antigua. Secondo il ministro dello sviluppo economico Paolo Romani, la puntata di Report sulle ville del Premier è stata odiosa. si facevano supposizioni, dice, non basate sui fatti, non mi è piaciuto, conclude, proprio come programma giornalistico. Interviene anche il presidente della RAI, Paolo Garimberti. Politicamente, dice, ognuno può esprimere le proprie opinioni, ma giornalisticamente parlando non vedo fondati motivi di polemica. Motivo del contendere resta la puntata di Report andata in onda domenica scorsa sulle proprietà di Silvio Berlusconi ad Antigua. Il premier ha citato il programma per diffamazione, un giudizio che, secondo l'avvocato del premier Nicolò Ghedini, dovrebbe essere avviato solo in sede civile e che conterrà la richiesta di un integrale risarcimento dei danni. Sono dispiaciuto, ha detto Ghedini. Avevo dato informazioni e messo a disposizione documenti sul caso già 6 mesi fa, quando erano usciti degli articoli sul caso. Ci difenderemo anche se con armi spuntate, replica ai nostri microfoni Milena Gabanelli. Se si ritiene diffamato, ha tutto il diritto di fare le azioni che ritiene più opportune. La considerazione che io posso fare è che se io mi ritengo diffamata da lui, non posso fare altrettanto. Maria Piera Ceci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Cronaca e televisione. Intorno al delitto di Avetrana, polemica contro e tra giornalisti che raccontano un avvincente fatto di cronaca nera. Uso apposta il termine avvincente che, al di là delle ipocrisie, è proprio di ogni delitto efferato, violento, quelli che si consumano all'interno della famiglia. Generazione dopo generazione, accade sempre così. Chi si ricorda o non si ricorda della belva di via San Gregorio, Rina Forte, chi del delitto del Circeo, e poi di Cogne, di Novi Ligure, fino ad Avetrana. Giornali, riviste, ora la televisione estendono i confini del paese, abbattendo le distanze. È un interesse morboso? Certo, lo è. Sentiamo Gianluca Nicoletti. Il pubblico televisivo sta seguendo la vicenda dell'adolescente assassinata con numeri paragonabili a catastrofi mondiali. Nulla è stato più come prima dalla sera famosa Chi l'ha visto, quando la notizia che l'assassino era in famiglia fu comunicata in diretta TV alla stessa famiglia dell'assassinata, radunata nel salotto buono di quello che allora si diceva l'assassino. Poi di giorno in giorno la televisione non ha più deluso i suoi supporter. Entra in scena la cugina Sabrina, ritratta lo zio Orco. Avetrana diventa un set palpitante dove minuto per minuto folle di telecamere e microfoni informano a tempo reale su quello che sarà il prossimo colpo di scena, sul più suggestivo romanzo criminale che mai potesse essere pensato. Un giallo in cui le vittime e i colpevoli vivono sotto lo stesso tetto le rivalità, le invidie e i rancori che sonnecchiano per anni, esattamente come accade in ogni casa di chi guarda. E tutto quello che ancora si potrà raccontare in uno studio TV, all'ombra di un plastico della casa del delitto e con gli inviati sparpagliati tra la folla, assieme alle lete con briccole familiari, in macabro pellegrinaggio mediatico fino a quel pozzo dove Sara restò chiusa per più di un mese. Punto e a capo. Altra pagina, altro tema. Esiste la possibilità che in Italia si possa riformare un nuovo terrorismo brigatista dopo le operazioni contro i responsabili degli omicidi Massimo D'Antona e Marco Biagi? Venerdì, a Italia in controluce, il reportage di Raffaella Calandra. Questa è guerra, quello lì è massacratore di operai, quello lì... Grida e fumogeni, raid, contestazioni sparse e allarmi concreti, con un interrogativo tanto preciso quanto funesto che si ripropone. C'è il rischio davvero di un ritorno alla banda armata? Al di là dei pericoli astratti e su uno degli ultimi fatti concreti che riflette il giudice milanese Guido Salvini. Nel 2007 abbiamo affrontato quella che viene chiamata la seconda posizione, cioè un altro tipo di brigate rosse. Esiste la possibilità di questo mondo di premere sull'area antagonista, sulle tante forme oggi di scontento, per in qualche modo allargare la propria base e riprodursi. Non ai samurai della stella a 5 punte, ma a quello che definisce il terrorismo politicamente sostenibile, pensa dunque uno dei magistrati che ha scandagliato più a lungo le versioni interna per 30 anni, prima nelle indagini sulle piste nere della strage di Piazza Fontana, poi firmando appunto gli arresti delle cosiddette nuove brigate rosse. Osserva il clima delle ultime settimane, dagli assalti alle 16 CISL all'ordigno lasciato alla Bocconi, e non mi piace, dice Salvini, ma scinde gli allarmi dai fatti, perché ora, ricorda, tutto è diverso. Le brigate rosse nacquero sull'onda dei movimenti nelle grandi fabbriche. È stato detto che i terroristi degli ultimi anni non sono più gli operai massa delle grandi fabbriche, ma sono i brigatisti del call center, i soggetti di quel mondo precario, frammentato di oggi, quelle fasce a cui la proposta terroristica quindi oggi si propone con un relativo successo. Punto e a capo. Eccoci alla nostra pagina degli esteri, dalla Francia agli Stati Uniti via Londra. Questo è un po' il percorso che vi propongo, dove la settimana è stata segnata dal progetto radicale di riduzione della spesa pubblica targato Cameron. Oltre 100 miliardi in 4 anni, 81 dei quali di tagli nel welfare. La scommessa del premier britannico è quella di tagliare 500.000 posti di lavoro nel pubblico senza far esplodere la disoccupazione. Quella insomma di rilanciare l'economia attraverso la ridistribuzione, efficace si presume, degli stimoli alla crescita. Nel Regno Unito fioccano i paragoni tra Cameron, il decisionista, e Tony Blair, ora definito il timido. Colpisce anche il paragone con ciò che accade con i vicini francesi, che nelle stesse ore invadono le strade contro la proposta di riforma del sistema pensionistico voluta dal presidente Sarkozy. 3 milioni e mezzo di manifestanti, secondo i sindacati, poco più di 1 milione stando alla polizia. In questa forbice c'è la verità numerica della sesta giornata di mobilitazione contro la riforma del sistema pensionistico francese. Una protesta dunque che, battaglie di cifre a parte, non sembra mostrare alcun segno di cedimento. Intanto però i francesi devono fare i conti con i disagi ed è il blocco delle raffinerie a causare i maggiori problemi, visto che quasi la metà dei distributori del paese è oramai a secco. Ma su questa situazione Nicolas Sarkozy è intervenuto ed ha alzato i toni, sottolineando che la gente che vuole lavorare non deve essere privata della benzina. Igor Fiatti, Radio 24 Sole 24 Ore, Parigi. Dalla Francia balziamo oltre Atlantico, dove si scaldano i motori per le midterm election del prossimo 2 novembre. Midterm, dunque metà del termine del mandato del presidente degli Stati Uniti Barack Obama. Lui non è in discussione, ma lo è il suo Parlamento, quello che poi vota le sue politiche e soprattutto le finanzia. Il presidente Obama, in calo di consensi, si appella al fascino, alla personalità della First Lady Michelle, questo per richiamare i delusi, richiamarli al voto e naturalmente magari rinnovargli la fiducia attraverso l'elezione della House of Representatives. 470 sono i seggi in ballo, oltre il 90% sono quelli del Congresso, gli altri il Senato. E vi ricordo che per misurare il significato politico di solito si calcola il numero di deputati vinti o persi, quindi soprattutto di quelli persi, dallo schieramento in carica. Piccolo promemoria, Bill Clinton nel 94 vide svanire ben 54 seggi democratici. E fu comunque eletto nel 96 per il secondo mandato. Ora dunque a New York. Mario Platero, nel suo consueto appuntamento, quello di America 24, 13 e 15, da lunedì a venerdì, ci racconta ciò che accade. Ma le elezioni non sono soltanto nazionali, sono anche locali. Ci sono varie poltrone di governatore in ballo, alcune importanti, in Ohio, in Florida, a New York. Sia in Florida che in Ohio c'è una corsa testa a testa fra repubblicani e democratici. A New York invece la vittoria è certa, almeno così tutti dicono, di Andrew Cuomo, figlio di Mario Cuomo, che già fu governatore dello Stato per 2 mandati. La voce che vi ho proposto poco fa è quella di Carl Palladino, che doveva essere il grande antagonista di Andrew Cuomo. C'è stato un dibattito a 7 l'altra sera e eppure Palladino ha, direi, un po' deluso. Sì, ha parlato delle difficoltà economiche, ha detto che Andrew Cuomo fa parte di una dinastia, che lui potrà portare novità vere ad Albany, ricordiamo la capitale dello Stato di New York, ma non c'è stato quell'attacco così drammatico, violento sul piano verbale ovviamente, che alcuni si aspettavano da un personaggio colorful, così colorito, stravagante come Palladino. Sentiamo Andrew Cuomo. You hear this issue from Montauk to Buffalo, where people just don't have faith in state government anymore. Anche Andrew Cuomo è stato sulla difensiva, così un dibattito un po' noioso da quel punto di vista, però Andrew Cuomo non poteva fare diversamente, ha un vantaggio, pensate, di 35 punti su Paladino, che è il suo concorrente più diretto, e dunque l'unica cosa che può fare in questa situazione è di star fermo, di non muoversi. Andrew Cuomo temeva che Paladino potesse allearsi così con un'alleanza trasversale, ricordiamolo, Paladino è un candidato improbabile che è stato eletto dal movimento dei Tea Parties di fatto, quindi di estrema destra, sembrava che potesse allearsi con un paio di candidati della sinistra, un'alleanza trasversale contro il potere precostituito, contro le radici profonde di chi appartiene a una dinastia politica come appunto Andrew Cuomo. Ecco, prima di chiudere questa pagina dedicata agli esteri, vorrei farvi risentire un'intervista che riguarda l'Italia all'estero, che riguarda il contingente italiano a Herat, Afghanistan. Dopo 6 mesi è tempo di cambio della guardia, la brigata taurinense subentra la Giulia. Cristina Balottelli ne ha parlato con il maggiore Mario Renna, che è il portavoce del comando nella regione di Herat, appunto. Nel periodo tra aprile e ottobre il contingente internazionale, che è stato guidato dal generale Claudio Berto, ha operato su un'area grande quanto l'Italia, con molti risultati di rilievo, come per esempio il fatto che zone che un tempo erano infestate dagli insorti oggi sono state pacificate e ripopolate, sono stati realizzati centinaia di progetti di sviluppo e sono state addestrate più di 4.000 poliziotti delle forze di sicurezza afghane e abbiamo disinnescato centinaia di ordini. Però, e questi sono i rischi a cui si va incontro in un teatro di guerra, purtroppo alcuni tra voi non faranno ritorno a casa. Certo, purtroppo è stata una missione articolata, una missione estremamente impegnativa che purtroppo ha chiesto anche un sacrificio in termini di vite umane. È un lutto che ci ha toccati, anche se in noi, in tutti i militari, c'è sempre la consapevolezza di questi rischi ai quali comunque siamo stati addestrati. C'è stato un grandissimo lavoro che ha messo la popolazione come centro di gravità di tutte le attività del contingente italiano. Sono stati realizzati più di 130 progetti per un totale di 18 milioni di euro. Alcuni progetti con delle particolarità, rivolti alle fasce sociali più deboli, quindi dei progetti rivolti alle donne. Maggiore, un'ultima cosa, come vengono vissute in Afghanistan tra i militari le polemiche che si scatenano in Italia ogni volta che qualcuno resta gravemente ferito o muore, quindi polemiche sugli armamenti, cannoncini sì, cannoncini no, bombe sì, bombe no, blindature rafforzate dei Lince, eccetera. Noi rimaniamo ovviamente fuori da queste polemiche e ci limitiamo a proseguire la nostra missione. È chiaro che per noi l'Afghanistan, vissuto sul campo ogni giorno, non è fatto soltanto da questi episodi tristi, da questi episodi negativi, ma è fatto anche di tantissime piccole storie che tutte insieme comunque danno un senso positivo, un senso costruttivo alla nostra missione. Ritornano gli incentivi per acquistare elettrodomestici, banda larga e quant'altro. Sentiamo esattamente cosa e quanto valgono nel servizio di Valeria De Rosa. Ancora 110 milioni per rilanciare i consumi, recuperati dalle somme già stanziate e non spese. Dopo una verifica, infatti, si è visto che per alcuni settori non tutti i soldi a disposizione erano stati prenotati. 110 milioni, appunto, che andranno a confluire in un fondo unico a favore di tutti e 10 i settori già selezionati. Un fondo che sarà disponibile a partire dal 3 novembre. Fino a quel giorno, i settori incentivati che ancora hanno a disposizione risorse potranno continuare a prenotare i contributi attraverso il sito web dedicato. L'iniziativa, partita ad aprile, poteva contare su 300 milioni di euro, sostenuti in particolare quei settori dove è forte la presenza di imprese italiane, come la nautica o come la produzione di macchine agricole. Anche nel settore degli elettrodomestici ad alta efficienza energetica, gli incentivi hanno dato uno stimolo alla domanda. Con lo sblocco di queste risorse è partita anche la procedura di rimborso dei contributi spettanti a rivenditori e acquirenti, in questo caso solo per gli immobili ad alta efficienza energetica. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Bene gli incentivi, soprattutto se arrivano correttamente. Il Comitato Incentivi 2010 in onda a Salva Danaio, padrona di casa naturalmente Deborah Rosciani. Allora io saluto la signora Marta, che è una appunto delle componenti di questo, non lo so come definirlo, Marta, buongiorno, comitato incentivi 2010, vi fate chiamare così, avete istituito anche proprio un indirizzo di posta elettronica, in quanti siete e che cosa, come avete messo in piedi questo gruppo? Ci siamo trovati nel blog Crisi Finanziaria, nella sezione dedicata alla procedura di richiesta degli sconti incentivi, e poi in un gruppetto di circa 15 persone, poi ce ne sono aggiunte altre, abbiamo deciso di sensibilizzare su questo tema i giornali e comunque chiunque potesse darci visibilità, dato che non riuscivamo ad ottenere le informazioni relativamente a quando sarebbero stati erogati gli incentivi. E infatti, chi vuole aderire, chi vuole partecipare appunto a questi incentivi, adesso può rifarlo di nuovo dal 3 novembre. Ma sullo sblocco delle risorse per chi li ha già prenotati? Ecco, questo è un po' un problema, è stato il problema fino ad oggi, perché i rivenditori hanno al momento anticipato gli sconti che il Ministero ha promesso ai consumatori e non hanno ancora visto i soldi tornare indietro, perché il Ministero non li ha ancora distribuiti. Come dicevamo nella puntata che abbiamo fatto qualche settimana fa, alcuni rivenditori insomma hanno anche deciso di non aderire più all'iniziativa perché per loro è chiaramente un costo, ma adesso il Ministero ha confermato di aver sbloccato le risorse che dovrebbero quindi arrivare, e i rimborsi quindi arriveranno a tutti i rivenditori che li hanno anticipati, e speriamo che sia vero. Altro genere di incentivi, quelli che arrivano da Strasburgo. Il Parlamento europeo ha infatti varato una norma che interessa evidentemente tutti o quasi, riguardano le neomamme e i neopapà. 20 settimane di congedo obbligatorio dal lavoro per le neomamme e 2 settimane per i neopapà retribuite al 100%. Sono queste le novità votate a Strasburgo dal Parlamento europeo. Con 390 sì, 192 no e 59 astensioni è passata la relazione dell'eurodeputata portoghese Edith Estrella, che rappresenta una piccola rivoluzione in materia di famiglia. Tra gli emendamenti approvati anche quello che vieta il licenziamento delle donne dall'inizio della gravidanza fino almeno al 6° mese dopo la fine del congedo. Non cambia moltissimo per l'Italia, dove le 20 settimane per le mamme sono già previste dalla legge. Diverso il discorso dei papà, per i quali l'attuale possibilità di congedo non è obbligatoria ed è retribuita con il 30% dello stipendio. Il testo adottato dal Parlamento sarà discusso nei prossimi mesi dal Consiglio europeo, dove un accordo si preannuncia particolarmente difficile, vista la forte opposizione di paesi per i quali l'adozione delle nuove norme rappresenterebbe un onere eccessivo. Pensiamo alla Germania, dove attualmente i mesi di congedo per le donne sono soltanto 3, durante i quali lo stipendio non può superare i 390 euro. Ma a ritenere la proposta insostenibile sono anche Francia e Inghilterra, alle prese con tagli e forti piani di austerity. Roberta Pellegatta, Radio 24 e Sole 24 Ore. Punto e a capo. Ultima parte di Punto a Capo per parlare ancora, prima di dedicarci come facciamo sempre agli spettacoli, ai musei, alle mostre, anche insomma per aprirci al fine settimana. Dicevo prima però ancora 2 notizie dall'economia, e sono buone notizie. Da una parte la Fiat e sono dati positivi, dall'altra il collocamento è nel Green Power. Sono 2 dei temi trattati in questa settimana all'interno di Focus Economia. Allora sentiamo Andrea Malan fare il punto sulla situazione del costruttore torinese e poi il direttore generale di Enel, Fulvio Conti. In termini di risultato operativo, sicuramente CNH che ha triplicato l'utile operativo a 215 milioni dai 66 del terzo trimestre dell'anno scorso, e soprattutto ha guadagnato in questo trimestre più dell'auto, dell'intera auto, che non succedeva da parecchio tempo. Anche l'Iveco è risalita da 22 milioni a 80, quindi risultati molto positivi. Le automobili hanno un dato 210 milioni che è stabile rispetto all'anno prima e che hai fatto, come forse hai già fatto intravedere tu prima, di 2 velocità: un Brasile che va a 1000, veicoli commerciali in forte ripresa, e invece un settore in Europa che continua a perdere colpi, anche perché è il mercato nel suo insieme a perdere colpi. Però sappiamo che Fiat era stata premiata molto l'anno scorso dagli incentivi che avevano stimolato le vendite di macchine piccole, quest'anno paga più degli altri in termini di vendite e quindi anche di redditività. Per quanto riguarda la Fabbrica Italia, Marchionne ha detto: con Pomigliano abbiamo chiuso, si va avanti con la Newco che assumerà i dipendenti con un contratto nuovo e quindi con le condizioni che noi desideravamo. Dobbiamo risolvere il problema anche degli altri stabilimenti, in particolare Cassino e Mirafiori, entro la fine dell'anno. Vogliamo risolvere entro la fine dell'anno, altrimenti ha di nuovo ventilato l'ipotesi di spostamenti di produzione all'estero, che però comporterebbero anche altri ritardi, costi, eccetera. Il problema del mercato dell'auto, direi che è anche un problema appunto di vendite, oltre che di produzione e di efficienza della produzione. Questo discorso, diciamo, con i sindacati è più, se vogliamo, un discorso strategico di come Fiat vorrà operare in futuro. Nell'immediato c'è questo, appunto, questo mercato che non va, ed è per questo, e vengo al discorso del debito, che una delle novità di oggi è un taglio abbastanza drastico degli investimenti anche rispetto a quello che era stato annunciato solo 6 mesi fa, cioè invece di investire 4 miliardi e 7 di euro il gruppo quest'anno ne investirà meno di 4, un taglio di 800 milioni che in parte deriva appunto dai ritardi di fabbrica Italia, quindi dal fatto che la Panda parte un po' in ritardo eccetera, ma in parte anche dal fatto che alcuni progetti sono stati rivisti e l'economicità di certi progetti in queste condizioni di mercato non è assicurata, quindi sono stati o messi nel cassetto o decisamente accantonati. Quindi è questo il punto di domanda. Per quanto riguarda il debito, questo taglio degli investimenti permetterà a fine anno di restare appunto a questo livello di 4 miliardi di euro e non a 5 come si pensava inizialmente, quindi in una situazione più vantaggiosa. È una condizione dove nel 2013 ci sarà sempre di più un bisogno di ridurre gli impatti di anidride carbonica emessi nell'atmosfera, sviluppare le tecnologie rinnovabili è all'interno di Green Power non solo un bisogno evidentemente strategico, ma anche una grandissima opportunità. Per cui offrire le azioni di questa ottima azienda in questo momento sul mercato vuol dire dare segnale di fiducia e di attenzione nei confronti dei risparmiatori che da azienda dell'Enel hanno solo da ottenere dei risultati crescenti, significativi e degli ottimi rendimenti. Certamente le rinnovabili fanno parte di un mix ideale di generazione di energia dove si coniuga l'efficienza energetica, le reti intelligenti che vengono anche attraverso il contatore digitale, ma anche e soprattutto sviluppi di combustibili fossili tradizionali con le nuove tecnologie a basso impatto ambientale e delle rinnovabili, come ben sappiamo, che di impatto ambientale non ne danno. Quindi l'insieme, il mix di queste tecnologie renderà possibile ottenere la soluzione di questa equazione energetica che noi perseguiamo da sempre. Punto e a capo. Tutti conoscono Leonardo da Vinci. I suoi quadri sono diventati un mito nell'arte. Le sue invenzioni anticipano i tempi. Ma qual è il segreto della sua creatività? Già, tutti conoscono Leonardo da Vinci, molti, soprattutto magari con qualche anno sulle spalle, riconoscono la voce di Philippe Leroy, il Leonardo da Vinci televisivo, tanti anni fa. Questo per introdurre l'anteprima mondiale al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano per il film documentario Leonardo Chi? È un film firmato da Salvatore Nocita, sarà l'evento al Festival Internazionale del Film di Roma. Voce narrante, appunto, l'avete sentita, Leroy Leonardo, anno 1972. Sono passato 40 anni. Diciamo che attraverso certi filmati ho ripercorso il suo cammino. Certo, è stata un'impressione un po' strana di rivedere. Lo sai che c'è, che sono autocritico, a volte non mi piace, non vado mai a rivedere i miei film, perché dico ma no, avrei dovuto fare questo, avrei dovuto fare così. Per fortuna che dietro di me c'era il maestro Renato Castellani, che mi ha sempre assecondato, aiutato, dato coraggio, eccetera, perché era molto difficile di voler interpretare un genio. Poteva benissimo essere un fumetto o allora una statua di bronzo. E come l'ho già detto, dietro la statua di bronzo ci sono anche le lacrime della vita. Dunque, attraverso più i suoi scritti, un po' la similitudine al suo carattere, perché sono un uomo un po' schivo e piuttosto lontano delle mondanità e tutto questo. Questo documentario ha molto del cinema di oggi e delle tecniche del cinema di oggi. Lei come si trova? È un altro mondo. Leonardo, 10 mesi di lavoro, senza orari sindacali. Dunque io mi alzavo sempre alle 4:30, 5 e tornavo a casa alle 11. I maestri non ci sono più. È un cinema che non esiste più. Scivola e non sa più cosa difendere. Una serie TV attesissima su cui in rete si moltiplicano le indiscrezioni. Manca un mese al ritorno di Romanzo Criminale e Romanzo Criminale viene anticipato da un concept album con brani inediti ispirati ai singoli personaggi. Il commissario Scialoia rivive nelle note dei Marta sui tubi che Marta Cagnola, scusate il gioco di parole, ha incontrato insieme all'interprete della serie Marco Bocci. Ci affascinava questa idea di costruire proprio un ritratto su un personaggio, una cosa che abbiamo fatto in passato per personaggi immaginari nelle nostre canzoni. Adesso c'è un personaggio vero, fisico, quindi è stato molto interessante. All'inizio della canzone c'è uno scambio e una quasi una visione sentimentale. Perché comunque il rapporto tra il commissario e la Patrizia, che sarebbe la donna contesa dal commissario e il criminale Dandi, è parte integrante, perché lui investe tanto su questa storia e si trova con un pugno di mosche in mano. Quindi questo, unito a tante altre delusioni, arrabbiature del personaggio, lo tratteggiano in maniera così un po' sofferente e in contrasto sia con se stesso, con i suoi principi, con i suoi valori, che con l'ambiente nel quale si ritrova a operare. Volevo sapere cosa hai pensato del commissario che hanno fatto venire fuori loro dal pezzo. E guarda, glielo dicevo proprio prima, e mi ha sorpreso molto il pezzo, perché dà una sorta di anticipazioni della seconda serie, di una trasformazione che il personaggio avrà e diventerà sempre più vicino ai cattivi rispetto alla legge. E c'è una frase proprio che dice quando la giustizia diventa criminalità, e è una frase che mi ricorda molto la seconda serie, la trasformazione che ha Scialoia in questo caso. Bene, con questo abbiamo davvero concluso l'appuntamento con Punto e a Capo. Da Pietro Lacorte in regia questa mattina, da Gigi Donelli un saluto, naturalmente l'augurio di un buon fine settimana.